figli di un Dio minore. Cronache e storie di impegno sociale. Intanto una grande attenzione, adolescenza, infanzia in un paese che soffre di denatalità. Diciamo subito che la tutela dell'infanzia è un tema che a me sta molto a cuore. Belle parole del sottosegretario Carlo Giovanardi e del ministro Mara Carfagna, corsi a Napoli per la conferenza con la quale si è chiusa la 3 giorni dedicata ai 20 anni della Convenzione sui diritti per l'infanzia. Conferenza che prima è stata disertata da tutti e 4 i ministri, poi quando sono arrivati sono entrati in forte polemica con l'UNICEF, l'agenzia dell'ONU che ha denunciato tra le promesse non mantenute dal governo italiano la mancata istituzione del garante e la mancata approvazione del piano per l'infanzia in stand-by da 5 anni. Noi aggiungiamo la mancata creazione di una semplice banca dati informatica sui bambini adottabili. Siamo in attesa dal 2001. Questa semplice banca dati permetterebbe di velocizzare l'attuale iter delle adozioni. Questa banca dati permetterebbe anche di sapere quanti sono, perché finora nessuno si è preoccupato di contarli. A Napoli, dove si è celebrata con questo spreco di retorica la giornata dei diritti dell'infanzia, sono arrivate anche dure critiche da parte delle associazioni che si occupano di bambini abbandonati. Cosa accade? Le case famiglia denunciano di non avere i fondi per fare fronte alle necessità primarie, vestire, nutrire, mandare a scuola questi bambini. Di chi è la colpa? Del comune che non paga le rette. Il sindaco della città, Rosa Russo Iervolino, sostiene però che il comune vanta un credito da parte dello Stato di 96 milioni di euro. Da parte sua, il governo, per bocca del sottosegretario Giovanardi, dice che non ha la bacchetta magica. E intanto, mentre a Napoli al convegno si discute, a poche centinaia di metri nella sua casa famiglia, Liliana si occupa di bambini abbandonati da 20 anni. Le abbiamo chiesto se arrivano i fondi. Arrivano sempre a singhiozzi. Come fate ad andare avanti? Io fortunatamente c'ho mio marito che lavora. Le altre case famiglia? Tante case famiglie praticamente non hanno i fondi per poterli portare avanti. Ci sono parecchie case famiglie che sono iscritte in una banca dove anticipano i soldi e poi quando il comune paga dovrebbero pagare pure il 10-20% di interessi. Quindi hanno fatto dei debiti? Hanno fatto dei debiti, sì. C'è stato anche qualcuno che ha chiuso. E i bambini che fine hanno fatto? Chi li ha restituiti, chi li ha portati indietro, chi li ha fatti passare in un'altra casa famiglia perché ha dovuto chiudere per forza, si sono liberati. Per me no, non è così. Per me la prima cosa, la cosa più importante sono i bambini. Io non farei mai traumatizzare ulteriormente i bambini portandoli in un'altra casa famiglia, assolutamente no. Quanti bambini ci sono adesso nella sua casa? 6 bambini, 6. Dai 6 mesi in su? Sì, da 6 mesi. È un bambino però 6 mesi che si porta come un bambino di 2 o 3, perché è proprio piccolo, piccolo, piccolo. È un gemello, praticamente è arrivato che non si sa se si sospetta di maltrattamento. È un bambino che ha un tubicino in testa che arriva fin giù nel pancino. Lei si sente supportata dallo Stato? No. Luigia è la responsabile di un'altra casa famiglia del napoletano che ospita anche minori portatori di handicap. Le abbiamo chiesto se la situazione rispetto a un anno fa è migliorata. È peggiorata. Noi praticamente siamo 3 anni che il comune di Napoli non ci eroga un fondo per i bambini. Il comune di Afragola sono 2 anni che non ci eroga un fondo. Non se ne può, ecco, come le devo dire. Lei quanti bambini ha nella sua casa famiglia? Io praticamente avevo 3 comunità, per cui praticamente ho delle comunità che vanno da 0 anni a 18 anni. Anche vedo con bambini con portatori di handicap? Sì. Io praticamente faccio inserimento di minori in disabilità cognitive insieme con i normodotati. E quindi avete anche, oltre che la necessità di vestirli, dare da mangiare, educarli, mandarli a scuola, comprare i libri, anche insomma dovete fare delle attività per questi bambini, sì, no? Sì. Queste non vengono pagate dal comune, lo pagate no. Voi? Sì. Senta, è vero che alcune case famiglia si stanno rivolgendo alle banche per avere finanziamenti? Allora, noi ci siamo rivolti alle banche per avere degli anticipi fatture, ma praticamente sono 2 anni che gli anticipi fatture che ci hanno fatto la banca non ci rientrano, e quindi la banca a questo punto, se nel caso mi viene a sequestrare anche la casa che io ho messo in, ho dato per avere questo anticipo fattura. Quindi non solo è vero, ma addirittura adesso non riuscite a fare a ripagare, a rientrare, insomma. Esattamente. E, è una situazione, signora, diffusa in Campania? Sì. Sempre a Napoli, Letizia tiene in casa con il marito 5 bambini abbandonati, sottolinea anche l'opera di prevenzione portata avanti dalle loro strutture. Io attualmente sono piena di debiti e adesso mi hanno organizzato anche uno spettacolo di beneficenza e quindi giornalmente sto andando avanti così, ma se entro il prossimo mese non arriva niente dovrò chiudere. E lei quanti bambini ospita? 5. Di che età? Dai 4 ai 10. E questi bambini, se lei dovesse chiudere, che fine faranno? Andranno, non lo so, in altre comunità si trovano posto, se no ci penserà il tribunale, io non so. Ma noi non possiamo più sostenere le spese. Perché voi è da 2 anni che non ricevete fondi dal comune? Cioè, abbiamo ricevuto qualche pagamento di fatture in mezzo, però come mesi da pagare? Sono 24. Molte case famiglie si stanno rivolgendo alle banche per chiedere finanziamenti, per chiedere insomma dei prestiti. Io già l'ho fatto, ho esaudito tutto. Quindi è già andata da una banca a chiedere un prestito? La mia banca mi ha fatto già uno scoperto, che come associazione senza scopo di lucro non è previsto dalla legge. E quindi mi ha già fatto lo scoperto, io lo sto già fuori dello scoperto. L'alternativa è chiudere, ma con grande rammarico, perché abbiamo investito molto e ci crediamo molto in questa prevenzione della devianza e della delinquenza, quindi, perché accogliendo i piccoli si fa azione di prevenzione. Sempre Napoli, sempre una casa famiglia. Questa volta a parlare è Maria, un'altra responsabile. No, la situazione non è migliorata, nel senso che il comune di Napoli purtroppo dice di non avere soldi perché non arrivano soldi da Roma. Perché sono bloccati, insomma non spiegano poi meglio la situazione qual è, per cui la situazione non è cambiata. Noi abbiamo un ritardo di 14 mesi con il comune di Napoli, abbiamo 14 mesi di arretrato, cioè non ci pagano da 14 mesi. Quanti bambini ospitate? Abitiamo in questa casa io, mio marito e nostra figlia, diciamo naturale, di 3 anni, e poi ci sono 6 bambini attualmente, perché ne siamo quasi sempre pieni. La fascia d'età è attualmente, noi ospitiamo 0-10 anni. Attualmente abbiamo 2 bambini di 18 mesi, 3 di 3 anni, 4 anni e 9 anni. Una bella famiglia allargata da sfamare e da vestire, come fate? Spesso veniamo aiutati materialmente da famiglie che noi chiamiamo le famiglie solidali, perché sono famiglie o le nostre famiglie o comunque famiglie che nel tempo ci hanno conosciuto e quindi quando possono vengono a dare una mano. In realtà questa parte di volontariato dovrebbe esserci, ma dovrebbe essere marginale, perché è sempre bello che in questi contesti ci sia chi aiuti, però voglio dire, noi offriamo un servizio che ci viene chiesto dal pubblico, tra l'altro, cioè noi siamo nati per questo, non è che ci siamo creati perché abbiamo pensato di bussare porta a porta e perché volevamo aiutare chiedendo un contributo, cioè lo Stato che allontana i bambini, il comune che allontana i bambini non sa dove collocarli, come provvedere al recupero e quindi li colloca in queste strutture. Prima di cambiare argomento vi voglio ricordare che Battello a Vapore, la casa editrice, ha appena pubblicato un libro sui diritti per l'infanzia che è stato ispirato proprio alla Convenzione sui diritti dell'infanzia dell'ONU. Si chiama Non calpestate i nostri diritti, i ricavati vanno devoluti poi all'UNICEF. Sono 10 racconti illustrati da 10 autori. E da Napoli ci spostiamo a Roma, dove negli stessi giorni in cui a Napoli si parlava di bambini, si è tenuto il vertice FAO. Altro appuntamento dove, a parte una dilagante retorica, non si sono registrati passi avanti concreti. Sergio Marelli, direttore generale Volontari nel Mondo, al microfono di Maria Chiara Grandis. Il giudizio è che si è pagato un prezzo troppo alto negli ultimi giorni del negoziato, pur di avere, seppur positivo, però pur di avere il voto favorevole

Grazie Maria Chiara Grandis per queste ultime interviste. Io vi saluto, vi do appuntamento come sempre a domenica prossima alle 14:15. Buona giornata da Valentina Furlanetto.